Ore 21 e 32 di giovedì 30 maggio 2024. Come forse qualcuno avrà trovato sul proprio cammino, c'è una immagine realizzata grazie all'intelligenza artificiale con una grande scritta al centro, All Eyes on Gaza, tutti gli occhi su Gaza, che ha superato i 30 milioni di ricondivisioni su Instagram e che dai nostri quotidiani, che nelle ultime settimane, con rarissime eccezioni, hanno tutti sostanzialmente ignorato quello che succede a Gaza, è diventato a questo punto una notizia. Cioè non è una notizia il massacro che si svolge tutti i giorni da quelle parti, ma diventa una notizia il fatto che un'immagine generata dall'intelligenza artificiale, e quindi evidentemente malefica per qualche strana ragione, o comunque ingannevole, illusoria, oscura, frutto di qualche mente malvagia, eccetera, eccetera, eccetera, ha riscosso un tale successo. L'immagine, non evidentemente non la solidarietà nei confronti del popolo palestinese. E su questo io mi limito davvero stasera a leggere, a leggervi il post su LinkedIn di Mafe De Bagis, che insomma è una persona che raramente non coglie, raramente manca il bersaglio, diciamo, non coglie nel segno, e che su LinkedIn commenta così: uno degli esempi più interessanti del fenomeno che io definisco vedere il bit e non la luna è questa immagine condivisa su Instagram più di 46 milioni di volte. Ecco, io ero rimasto a 30. 46 milioni and counting, dice Mafe. Iniziative come queste servono a una cosa sola, molto importante: far sentire la presenza di decine di milioni di persone che osservano, come dice il copy, qualcosa che sta succedendo. Non vogliono fare richieste, proporre soluzioni, dirimere litigi, sostituirsi alla diplomazia. Ci sono e ti guardo, che è quello che noi donne facciamo in gruppo quando sentiamo che una di noi è in pericolo, anche in casa. Non guardiamo dall'altra parte, questa è la luna. Qual è il bit, il dito? Che da ieri vedo discussioni anche elevate su A, questa foto è solo click activism, e B, questa foto è stata generata con intelligenza artificiale. Ma ce la fate, chiude Mafe. Ecco, io non avrei molto da aggiungere, se non che questo tema dello slacktivism improvvisamente riscuote tanto interesse in questa circostanza da parte di persone che forse dormivano 10-15 anni fa, quando Gert Loving ne parlò per la prima volta in occasione, diciamo, dei primi vagiti di comunicazione politica sui social, e oggi chissà come mai diventa un tema con cui aprono, per esempio, i giornali. Persone che non credo abbiano mai letto Loving, ma che sanno molto bene che cos'è un frame, anche questa volta. Davvero, guardare il dito e non la luna.